E dopo le polle anche per far formare le gna più buone. Non ha sostanza. Ma no, le grale, ma le mie caratteristiche, aumenta le diciamo, cellule somatiche, cioè la composizione più non è mica adatta a far formare. Termina il formaggio, le sfasare.